Tipógrafo con un cognome così dovrei essere in Rai, ma sono qui a far progetti cervellotici. Che divide poi conquista, faccio il dirigente, ma non rischio niente. Responsabilità io ne ho solo verso gli amici di papà. Amici di papà, tipografo.